Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Ludico Forum, il programma di Runtime che partendo dal mondo dei videogiochi esplora tecnologie, creazioni e tanto altro legato al mondo dell'intrattenimento digitale. Ogni venerdì in diretta alle ore 21 su runtimeradio.it e successivamente su tutti i più importanti aggregatori podcast. Ludico Forum, sempre e solo su Runtime Radio. Cerca su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi. Scopri il nostro palinsesto su www.runtimeradio.it. Scusate, ma nel frattempo mi stavano morendo gli speaker addosso, quindi dovevo risvegliarli con una scossa roteante. Ciao a tutti, abbiamo fortemente voluto questa diretta spot, cioè veramente contiamo sul nostro co-presentatore perché diciamo così la diretta vada, ma volevamo fare anche noi un omaggio al momento nazional popolare più nazional popolare di tutti i momenti nazional popolari del mondo, ovvero Ciao 2020. No, sto scherzando, ragazzi. Abbiamo anche noi visto Sanremo 2021 e abbiamo chiesto al fantastico, grandissimo, immenso conoscitore del trash e di tutto quello che è musica italiana, Luca Casciola, di essere con noi. Quindi salutiamo per primo Luca Casciola. Certo, con questa presentazione, conoscitore del trash, musica italiana, sembra un abbinamento, ma non è così, No, no, assolutamente, però tu, cioè, nel senso, io tra i tanti pregi che ti conosco è quello di essere praticamente l'enciclopedia della musica italiana e del festival di Sanremo e del trash, perché comunque dai, cioè veramente pure là sei un grande colpo trash, è una scienza il trash, C'è stato Alberto Tomba stanno a Sanremo, c'è stato il colpo trash, sì. Che ci ha ricordato il mitico Alex D'Ariete. Ricordo a tutti su Wikipedia 286 spettatori totali al cinema e io ero uno di quei 286. Ovviamente, non ci aspettavamo altro. Ma, in questo viaggio, diciamo così, in questo excursus, in questo pomeriggio di Sanremo, abbiamo praticamente assodato una grande, diciamo così, una grande appassionata di Sanremo, cioè io non avevo idea che lo fosse, ma quando mi ha detto scusa ti devo salutare perché devo vedere Sanremo, ho capito che ho detto ok, va bene, ce la portiamo anche qua, è la nostra, salutiamo Girasole. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Devo dire che poi Girasole, la nostra Olivia, ha preso appunti tutta, sì, la serata di ieri, ma poi questi appunti sono finiti nel camino. No, sono rimasti nella tasca della vestaglietta da nonna che avevo per vedere Sanremo, perché insomma, okay, avevo freddo e quindi, cioè tu hai, sì, una vestaglietta da nonna. Sì, proprio sai la vestaglietta, però quella che è bellissima. Te la invidio proprio, la voglio anch'io. Che tiene tanto caldo, sì, adesso okay, te ne regalo una. Questa cosa abbiamo perso un ascoltatore in tempo reale. Quella vestaglietta è andata. È morto qualcuno? Dico ci sono, dico tanto gli appunti. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Dico tanto gli appunti possono essere sintetizzati dal prossimo conduttore che presenterai in quattro, sì, parole, secondo me. Quindi... Sì. Allora, il prossimo conduttore che presentiamo, vai, che l'abbiamo, vai, preso, vai. Tipo, ma tu puoi stare con noi? Ma io che ne so. Però ci serve, ci fa comodo perché lui comunque svolta le serate, il nostro fantastico distruggitore, ovvero alias Marco Gualdi. Io non svolto le serate, sono le serate che sono talmente noiose che mi fanno diventare divertente, capito? Cioè, quello è il problema. Salutiamo Sanremo in chat. Ciao Sanremo. Ciao Sanremo. Io fantastico. Non conosco, non ho mai visto una puntata di Sanremo se non quando c'è stata l'esibizione di Elio e sì, dei rivali. Elio e le storie tese. Due esibizioni. Come? Puoi comunque fare un sunto conoscendoti, anche se non l'hai visto. Ma mi mancano un po' le basi per far il sunto, perché io sai, più conosco il protagonista e più il sunto viene succoso, capito? Il problema è che qua proprio non sarebbe, per me sarebbe da cestinare, però voi siete contenti, evidentemente siete vecchi dentro e vi piace Sanremo. Allora facciamo così, a fine puntata me dovete aver convinto a vedermi Sanremo 2022. No, non convinciamo nessuno. Oppure a morì prima. Cosa, cioè, me dovete convincere una delle due. Sono entrambe due cose tristi. Noi non convinciamo nessuno a vedere niente che nessuno vuole vedere, perché comunque Sanremo alla fine è una, diciamo così, una manifestazione. L'istolante cinese se cerca la moglie, comunque. Ad ogni modo, volevo dire che saremo alla fine una manifestazione nazional popolare e quindi riporta tutto il bello e soprattutto il brutto. Volevo citare, nazione. No. Volevo soltanto dire, se non l'ho convinto io in 10 anni a vedere Sanremo. No, infatti. Io lo conosco. Cioè. Allora, io volevo soltanto dire, insomma, agli spettatori che l'altra sera siamo andati a mangiare dal cinese, parlando, abbiamo detto, certo che sua moglie, insomma, è un po' cattiva. Il cinese ha detto: "Senti, mangia." Io non so, adesso forse capisco che c'era un secondo senso. Abbiamo anche parlato ieri di sta moglie nel programma Runtime di notte. Poi dopo, insomma, faremo. Però non ci interessa. Non facciamo troppa autoreferenzialità. No, più che altro poi l'ascolterete. Insomma, quando ascolterete le repliche di Runtime di notte su Runtime, sulla radio di notte, poi bisogna ascoltarlo. Perché se lo ascolti di giù non vale niente. Vale. Sì, sono d'accordo. Ragazzi, intanto cominciamo con Marco. Marco poi ci dirà anche lui qual è la sua canzone preferita. Allora, intanto, la mia canzone preferita è di Roberto Robertini. Dopo ce lo dici. Allora, intanto ringraziamo Simone Vizzi che c'è nella regia, ma lui ha detto che non parteciperà. Però c'è nella regia, fa cacciara, insomma, salutiamolo. Radio perché... Cassarotta. No, Cassaditta, scusa. Sta a posto. Allora, intanto, domanda a bruciapelo. Prima a Luca, poi Olivia, poi Marco, poi io e poi dopo Marco ci dice il suo... La sua canzone pezzo. Preferita, la vostra canzone preferita di Sanremo, quella che secondo voi avrebbe dovuto vincere. Luca. Dici a me? Sì, parti Luca, tu. Vai. Sono abbastanza indeciso. Canzone proprio, direi probabilmente Max Gazzè. Okay. Probabilmente. Okay. Forse anche Orietta Berti, non lo so. Ma perché c'era Orietta Berti? Sì, c'era Orietta Berti. Ha fatto anche un figurone. Non solo, Orietta Berti è riuscita in 3 giorni a farsi inseguire dalla polizia per violazione di coprifuoco, sì. Ad allagare l'albergo, sì. e a dire: "Ho fatto anch'io un duetto con i Nazi Skin." Avrei voluto fare un duetto con i Nazi Skin. Stupendo. Cioè, vincitrice a sto punto, Orietta Berti, tutta lì. Sì, basta, sì, no. Basta. Cioè, tipo adesso compro certo tutti i dischi di Orietta Berti. Dal certo punto c'era una. Diciamo così, un Instagram che seguo io che consiglia libri, che però è un personaggio un po' particolare che su Telegram, io seguo la sua pagina Telegram pure, e a un certo punto ha fatto un meme, ha scritto: "Orietta, guidaci tu nel buio della notte", perché c'è veramente fantastica. Praticamente lei il primo giorno è stata inseguita dalla polizia per violazione del coprifuoco di notte per andarsi a provare i vestiti, poi ha messo i fiori del Sanremo dentro la lavandina, ha aperto l'acqua e se n'è andata, e quindi ha allagato tutto il piano dell'albergo. L'hanno intervistata e gli hanno detto: "Ma con chi vorresti fare il duetto con i Nazi Skin?" Permettetemi, quella era rincoglionita 20 anni fa. Sì, no, ma ragazzi, io l'ho trovata veramente un po' più, insomma, rallentata, diciamo. Comunque, sì, secondo me voleva veramente fare un duetto con i Nazi Skin. C'ha avuto il Covid, infatti, quindi secondo me poverina non si è ripresa tanto bene. Adesso, insomma, però sì. Poteva anche evitare, sì, infatti, certo, cioè, chi lo fa? chi ha fatto fa, cioè, ma lui pensa davvero nel 2021 di riconquistare la vetta delle hit parade italiane, dai, cioè. No, là qua bisognerebbe aprire un discorso un po' tecnico, però fondamentalmente, esatto, la domanda chi l'ha fatto fa è generale su tutta la manifestazione. Ma sì, è quello che dico io da quando ho coscienza di me stesso, cioè. Intanto c'è da dire che comunque questa diciamo questa kermesse ovviamente ci è voluto anche tanto per decidere se era veramente il caso di farlo oppure no, perché siamo in piena pandemia, l'Italia c'ha veramente, ma non solo l'Italia, è il mondo, ma soprattutto la nostra popolazione c'ha veramente altri cavoli già a cui sta soffrendo pensare. Perché pure Sanremo, sì, insomma, cioè. Perché soffrire ancora, esatto, e quindi mi aspetto che Michele allora chiami un virologo no, assolutamente no, ma soprattutto cioè, c'era da capire ma sarà veramente il caso di fare sta trasmissione, di fare questa cosa, e sembrerebbe che comunque diciamo così il direttore artistico, che mi sembra di capire che era Fiorello, giusto? No, ma che cazzo? No, Amadeus. Scusa, mi sono sbagliata, chi era Amadeus, comunque l'ha motivata un po' dicendo sì, comunque mi servivano i soldi, raga, quest'anno andrà male, figuriamoci, l'Italia c'ha bisogno di ritornare un po' alla normalità capito, ma quella non è la normalità, raga, cioè è la normalità, è. Invece sì, purtroppo invece quella è proprio la normalità, è la normalità quella lì. Continuiamo a perdere ascoltatori. Allora intanto vabbè, finiamo un discorso e poi iniziamo altri discorsi. Allora, la tua canzone, la canzone che per te avrebbe dovuto vincere, Luca l'ha detta? Ok, Orietta Berti, ok. E Olivia? No, perché era indeciso fra una e un'altra, quindi ho Orietta scelto Berti, io. Ok. Allora, in realtà a me di tutte le canzoni dei, chiamiamoli big, che ho sentito, è piaciuta quella di Shorty, che ovviamente non faceva parte della categoria di giovani. Esatto. La Shorty, okay. Shorty che tra l'altro musica soul, ha fatto veramente un pezzo soul, bello, molto mi bravo. È piaciuto, è veramente, era interessante, non era scontato, certo. Sì, non era scontato proprio, diciamo, sì, nella ritmica, negli incastri delle frasi, scusa, mi è piaciuto posso? Veramente tanto, sì. Ti dico solo che a Shorty è rimasto solo un ascoltatore in diretta. Fantastico. Ragazzi, non mi dovete non chiamare più. Infatti, sì, ma che ci frega? Va bene lo perché stesso. Perché ancora non ho detto il mio cantante preferito, però cambia pure quello. L'era dell'on demand, poi ce lo risentiranno dopo. Infatti. Allora, intanto, ok, quindi Shorty, sì, e basta. Non ci so big che ti so, allora, che t'hanno convinto. Insomma, in realtà non tantissimo, devo dirti. Ma perché c'erano i big a Sanremo? Cioè, no, io voto Shorty. No, non c'è Shorty. Strano, sì, non sì, sì, Shorty. Vabbè, Shorty a questo punto rimane Marco. No, Marco. Su io no, ho detto che tu per ultima facevi. Vabbè, no, tu lo fai per ultima. io già l'ho detto, con la fece di Martino, perché per me secondo me dovevano vincere. Tra l'altro, la poi fece di Martino, noi abbiamo detto, io con la pesce e di Martino. Con la pesce di Martino sono con la pesce. Sì. E che poi tra l'altro abbiamo anche mandati su di tutto un podcast diverse volte, insomma, unico. C'erano all'epoca, sì, Madonna, sì. Beh, in questo Sanremo ci stavano due artisti che so, anzi, uno addirittura abbiamo pure intervistato, sì, quindi insomma. Sì, c'era pure Simona Vincola, che comunque l'hanno cacciato subito perché canzone, si è presentato vestito dal bambino scemo. Ma non è come si è vestito, è che c'è la canzone che... Sì. Che voi ricordate che Simona Vincola, quando aveva 20 anni, era un promettente cantautore, un sostenitore del cantautorato romano, cioè italiano e romano in particolare. Quindi faceva tutte queste canzoni alla Stefano Rosso, bravo, e soprattutto aveva scritto una bellissima canzone di cui non c'è più traccia, non si sa perché lui sta canzone l'ha fatta sparire, ma era veramente bella, e perché così ci avanzeremo. Ha scelto la strada per Sanremo e, vabbè, e si è rovinato veramente. Non si è capito, tanto si è capito non ce lo dice. Come non sappiamo, non Marco l'ha detto, il pesce ha detto. Con la pesce di Martino con musica leggerissima. Michi sì. Ah, okay, sì. Scusa, Michele, quindi a te chi ti è piaciuto? No, ma anche per bypassare, cioè, quindi qual è la seconda scelta? Ah, seconda scelta, devo mettere la seconda scelta? Non lo so, non c'è la seconda. Scusa, scelta. Luca l'ha messa. Forse Max Gazzè, dai, Max Gazzè, ma soprattutto ma per un altro motivo che poi racconterò dopo. Ma io ho visto c'erano i neri per caso, cioè una cosa. Dopo ne parleremo, dopo ne parleremo. Perché non si può essere neri per caso, ci nasci. Però scusa, Luca, ti lascio la parola, però sentiamo un attimo. La mia canzone preferita è Sono casato dei Nazi Skin. Per quello non volevo, perché Manganello dei Nazi Skin. Ma noi tratto dall'album Manganello, sì, esatto. E odio di Ricino. Tutte anche le strade portano Marco Gualdi e ci dice canzoni. Io direi, vediamo un attimo, facciamo un po' una somma, un riassunto. Più che un riassunto, è quello che è andato bene e quello che è andato male, no? Ok. Allora, partiamo, secondo me, dalle cose buone di questo festival. Sì, giusto, va bene. La cosa più buona di tutte è stato sentire due canzoni di Giovanni Lindoferretti sul palco. Va. Deve essere la cosa più buona. Assolutamente, io veramente appoggio in tutto. Notte, però, vabbè, sì, non si può fare, cioè, sì, è vero. Tutto. Voi sapete sono che una del mondo. Del mondo. Gazzè, insieme a Silvestri e alla sua band. Sì. L'altra è stata Amandoti, eseguita male da Nazi Skin. Con Cobra Kai, praticamente. Ma non è Agnelli. È uscito da Cobra Kai. Però è, cioè, diciamo, è importante. Poi Silvestri ha detto che lui avrebbe messo la firma, cioè, a farla alle 2:15. Infatti l'ha fatta alle 2:15. Però è una io voglio chiedere a Michela, soprattutto, che come me è una fan dei CSI, sì, CCCP. Cioè, come mai secondo te questa scelta, questo ritorno in audio? Beh, ma Max Gazzè non ha mai nascosto il suo amore per questa canzone. I Nazi Skin perché in realtà questa canzone dei CCP, perché Amandoti era CCP, giusto? Sì. CCP. In realtà questa canzone era già stata ripresa anche da Gianna Nannini, mi sembra. E secondo me, cioè, era molto più orecchiabile e probabilmente Emanuele Agnelli non l'ha scelta perché era dei CCCP, ma perché comunque era una hit che in qualche modo negli anni 2000 si conosceva abbastanza grazie a Gianna Nannini, almeno secondo il mio parere. Questo. Però comunque è importante, insomma, secondo me il ritorno di un certo tipo di musica nelle cover. Sì. La sera delle cover è stata francamente imbarazzante nel 90% dei casi. No, però dai, ragazzi, sono tornati neri per casa, però, con Gammon. Scusate, c'è un contributo, no? Gianna Nannini, cioè, facciamo sentire questo pezzo. No, perché sapete che io l'ultima esibizione che ho visto Gianna Nannini a malapena stava in piedi, a malapena. Sì, sì, è vero. Poi diciamo la seconda cosa invece positiva invece del festival è stato Francesco Renga, che grazie a tutti i cosi che abbiamo mandato io e Michele era finalmente, sì, è caduto finalmente. Ma non abbastanza, perché una comunque insomma, poi, cioè, ma è arrivato tipo tra gli ultimi. Sì, però ha fatto veramente una pessima figura. No, cioè, veramente già. Anzi, tra l'altro, secondo me, diciamo che poi nell'arco delle serate è migliorato anche, perché pure la prima, secondo me, è stata veramente la più imbarazzante di tutte, sì. Sì. Vero? Sì, sì. No, veramente terribile. Poi è suonato con una cantante di X Factor. Che è bravissima, però non l'ha fatta cantare come sempre lui fa. No, che stai scherzando, lui canta meglio di tutti. E comunque la cosa curiosa è stata un'intervista che ha rilasciato oggi, che lui ha detto che questo brano è un po' progressive. Pronto? Dove l'abbia sentito un po' prog, non si sa. Cioè, il suo brano, non sentivo più niente, scusa, hai detto che il Renga ha detto che il suo brano è un po' progressive. Dove l'abbia sì sentito non si sa, però. Mamma mia. Non c'ho parole. Ma no, vabbè, ma comunque Renga con la riflessione finale un pochettino, cui vorrei che anche Marco e anche io ci dicessero qualcosa. Ma questo festival è stato scelto praticamente il cast per chi faceva più visualizzazioni, giusto? Mm-hmm. Questo è stato il criterio con cui sono stati scelti i bighi. Quindi la domanda è: perché non c'era Domenico Bini? Ma chi è Domenico Bini? Non so chi cazzo sia. Infatti, chi è Domenico Bini? No, vabbè. Spiegacelo. È un cantatore di Trani. Pensionato. Ah, aspetta, è quello che produce 5 canzoni al giorno. È vero, adesso okay. Sì, ok. È che non conosco il nome, lo conosco solo di fama. Io, sì. No, Pizzi, guarda, prendi un pezzo qualunque di Bini, cioè apri il canale di Bini, prendi l'ultimo che l'avrà fatto 5 minuti fa. Su Sanremo, ovviamente. Com'è che si chiama? Scusa, Domenico Bini. No, devi assolutamente metterlo. Se vuoi, te lo rincoglio. No, aspetta, allora, ragazza, aspetta, che io ci sta lavorando. Sono molto curiosa perché, onestamente, non ho ancora presente. È un grande, cioè, tu quando sei un genio. genio, no? Che partorisci roba proprio a schifo, okay, perché c'hai tanto di quel talento dentro. Perfetto. Ogni giorno fa 5-6 canzoni. Oddio, esatto. Cioè, c'è una canzone col titolo Confusion in the World. Aspetta, che lo sta facendo. Aspetta, ti mando il link. Pizzi ne trova di buone quelle sul pop. No, aspetta, che produce giornalmente. Aspetta, vai, vai. Che cosa sta succedendo? Oh mamma, sta cambiando il mondo. Pure rock, ragazzi. Perché rock è pesante. Ci sono troppe catastrofi. No, no, questo Runtime the Night. Ok, allora, aiuto. Lascialo in sottofondo. Cerca il brano di suo maggior successo, che dovrebbe essere Il Vulcano. Oppure Il Vulcano. Perché non ride mai? Perché non ride mai? Cerca perché non ride mai. Guarda quante visualizzazioni c'hai. Dimmi se lui non doveva essere fra i big di Sanremo. Se il criterio ormai è questo. No, vabbè, ragazzi, ma non è possibile una cosa del genere. Ma in che mondo viviamo? Lo dice lui. Troppe catastrofi. Se lo chiede anche lui. Perché non ride mai? Se no io la linko. Aspetta. No, ho fatto. Stai calmo. Stai. Perché non ride? Perché non è più, mi pare si chiama. Che invece è un po' più acustica. Un po' del suo. Guarda quante visualizzazioni ha. Qui c'ha la luce in faccia. E perché non ride mai? E perché non ride mai? Quante visualizzazioni c'ha? Guarda. E perché non ride più? Perché l'hanno scioccata da bambina. Quante sono? Non lo so, dal mio telefono non si vede. Dillo tu. L'hanno scioccata da bambina. Ma che stiamo ascoltando? Ma che è sta roba? Quante sono? Diccelo tu perché qui non lo vediamo. Non ride mai. Facciamola finire. Ah, no, sono 100 e passa mila visualizzazioni. Mezzo i soldi che fa questo. No, vabbè. Luca, però possiamo dire una cosa: che noi non abbiamo capito un cazzo. Non ci abbiamo capito un cazzo. No, infatti. Ovvio. Cioè, a questo punto, cioè, dobbiamo replicare questa cosa. Cioè, dobbiamo trovare pure noi. Cioè, non possiamo fare quegli stronzi che dopo 10 anni di podcasting ancora non hanno capito un cazzo. Cioè il brano più famoso di Domenico Bini, Il Vulcano, è tipo 1 milione di visualizzazioni. Quindi, secondo la logica di Amadeus, doveva stare sul palco a Sanremo. E secondo me gliel'ha anche chiesto, ma lui non ci è andato, conoscendolo. Ma perché lui è un professionista, non va a Sanremo. Comunque, ragazzi, approfondite perché merita. Vabbè, comunque chi era che la canzone quella là, Un paese di musichette, quando fuori c'è la morte, la citazione di Boris. Che com'era alla fine, dai, tutto sommato quella canzone in qualche modo voleva essere un po' di denuncia, un po' più o meno. Ma quindi mo lo sentiremo tutto il tempo. Comunque oddio, ma il video è terribile. Babbo, dai. Ma ragazzi, ha 60 anni questo signore. È un genio, raga. Questo ha 60 anni e ha capito più di noi. 60 anni. Specchi, mi sta fracassando le orecchie, Bini. Ok, no. Ok, va bene. No, vai. Lo tengo sotto, però. Lo tengo sotto perché è sempre carino. Dico, cioè, Bini è un caso, va approfondito. Però è così. Però la logica è quella. Allora, se ci stavano Pesca Pesce e Fran Martino là, perché fanno. Con la pesce! Cioè, doveva sta pure Bini. Ma come? Ma che dici? Ma quelli sono cantautori. Allora, no, che secondo hanno me lavorato con Battiato. Ma dai. Allora, comunque io credo che non sia stato chiamato perché nel frattempo hanno preso Buco a fare questa cosa. Ma perché hanno c'era Buco? Sì, c'era Buco. Ma questo cazzo di Buco? Hanno preso Buco, chi è? Cantante, no, che Buco, non sa cantare. No, Buco. No, aspetta, attenzione, Buco va aperta la cosa. Sento un mio ritorno. Va aperta. Buco è l'inventore dell'indie pop. Prima che l'indie pop fosse Calcutta, fossero davvero? Cassero, ah, certo. Sì, che okay. Però poi si è bruciato un po' di droghe e cose varie. Si però sente. L'invento dell'indie pop in Italia è Buco, purtroppo. Poi vabbè, la presenza costante del allora, tutto il bello che c'è stato in Sanremo per me è stato soltanto, quasi soltanto nella serata delle cover. nel vedere i neri per caso, i CCP, i CSI e i neri per caso, perché i neri per caso li ho odorati veramente. Odorati, allora odorati. Io, se posso dire una cosa, io veramente, a me piacevano tanto i neri per caso quando uscirono al tempo, però poi siccome uno dei neri per caso, che non ho ancora ben definito quale sia, in realtà ha fatto un incidente con mio fratello e l'ha mandato all'ospedale con un femore rotto. Esatto, da quel giorno io ho deciso che i neri per caso proprio non facevano più parte dell'emisfero, tua famiglia, no, cioè proprio dell'emisfero terrestre. Almeno ha pagato i danni che ha procurato. No, abbiamo dovuto fare anche una causa, per fortuna, sti morti di fame, insomma. Per fortuna, alla fine l'abbiamo vinta e mio fratello è stato risarcito, però insomma si è rotto il femore a 16 anni, è stato in ospedale, è stato abbastanza male, insomma è stata una cosa un po' brutta. Che poi se l'è tenuta fino a dirla in radio, cioè fantastica. Perché strilli? E io in realtà non ho voluto sapere quale fosse di quelli, proprio per, diciamo, non indirizzare il mio odio per odiarli tutti a prescindere. esatto, perché sennò sarei stata troppo cattiva. Bello, sono belli bei momenti di radio questi, insomma. Vabbè, quindi non lo dico più. Non lo sapevo, quindi più. Erano simpatici quando erano usciti, erano la novità in Italia. Assolutamente, no? sì, a me piaceva. Soprattutto era divertente vedere Mighty Greg Gol con Teo Deogoli e oddio, non mi viene. Io però non è che voglio dire, però dobbiamo parlare di Sanremo, che cavolo. Sì. Cerchiamo di fare un po' di ordine. Infatti, hai ragione, Luca. Dobbiamo parlare di Sanremo. Perché io gli ho detto "Ma vi siete preparati per la trasmissione?" Così, sì, tutto certo, così tanto. C'è così tanto da dire su Sanremo. Siamo passati da Gualdi che è andato al ristorante cinese, quella che ha fatto l'incidente con il caso. Ma Sanremo è tutto questo, e di più anche. Esatto. E poi io posso raccontare che mi dolano i piedi, allora, e che mi faccio la bacinara d'acqua calda, se volete. Ok, ascolta, intanto vabbè, tutto il bello di Sanremo, quindi... Tu ci hai detto, Olivia, qual è il bello per te? Ma il bello per me... È molto attenta, Michela. Allora, no, il bello per me... No, perché ci perdiamo poi, andiamo avanti nei mille discorsi, quindi sto cercando di riprendere il filo. Allora, in realtà, diciamo, Sanremo va preso per quello che è, secondo me, e quindi, insomma... Non ci si può aspettare veramente una grande, grande cosa, però secondo me alla fine... forse si è provato ad uscire un po' pochissimo fuori dalle righe che negli anni il festival ha sempre tenuto, e quindi comunque un minimo di, non voglio dire innovazione, ci sta. Detto questo, però, poi il risultato... Ma solo perché gli altri sono morti tutti, No, dai, gli altri non sono morti, però insomma, secondo me questa, cioè, io nel senso, da profana della musica come sono, onestamente quest'anno ho trovato diversi nomi che non conoscevo, e quindi alla fine questo, da veramente proprio italiana media che seguo il festival, mi è piaciuto. Allora facciamo parlare a Luca, che è l'unico che qua. Ok, no, aspetta, il bello. Niente, non aspetta, niente, Luca. Dopo ti passo la parola a te e vai avanti tu. Però secondo me il bello di Sanremo, secondo Marco, ve lo dico io quale potrebbe essere stato, dato che Marco non sa assolutamente niente: il palloncino a forma fallica. Tre palloncini. A tal proposito, ho una notizia, ragazzi. Però scusi, in tre giorni abbiamo avuto il palloncino a forma fallica, un monologo sul pisello del polpo. Sì. Perché così è stato. Esattamente. E poi un'altra cosa che non me la ricordo, il primo giorno, sempre relativa a sta roba. Perché alla fine si parla solo di sti cazzi. Di cazzi, non me lo ricordo, però. È il discorso. Cioè, praticamente la seconda serata. Mentre voi trovate questa cosa, io invece vi leggo velocemente, faccio un riassunto di. Oddio, paura. Di un articolo della Repubblica: il vescovo di Sanremo contro il festival, offese sul palco alla fede cristiana. Praticamente il vescovo Antonio Suet ha pubblicato sul sito della diocesi una lettera in cui attacca il festival per la mancanza di rispetto e derisione verso la fede cristiana, esibita in forme volgari e offensive, e non ha ascoltato mai nessunissimo episodio di qualsiasi trasmissione di Runtime Radio. Esatto, se l'avesse fatto avremmo anche noi la nostra pubblicità. Vabbè, c'è un po' di spazio per tutti, dai, a questo mondo. Vai, Luca. Ah, io vorrei fare un attimo una riflessione più generale e seria di 2 secondi. Il problema di questo festival è stato che perché, cioè, faccio una domanda, aspetta, così interagiamo, tipo Olivia. Perché sì, secondo te i cantanti Olivia, così a caso, una a caso, perché secondo te i cantanti vanno al festival? Cioè, qual è il ricavo di andare al festival oggi nel 2020? Uno. La visibilità. Esatto, dai. Sì, infatti, la visibilità. No, proprio in termini pratici. Cioè, cosa io investo dei soldi, perché andare a Sanremo, ricordiamo, ha un costo molto elevato per, certo, per un artista, casi discografico, sì, cioè, sì. Mazzette, cosa del genere. Torna indietro, secondo te? Visibilità, continuo a sì, dire. Per farci cosa, però? Arriviamo al punto. Pubblicità. Sì. In realtà, diciamo, i dischi non si vendono più, quindi l'unico motivo, no, che gli artisti hanno per andare a Sanremo è fare, è farsi vedere proprio il cachet del live estivo. Ah, ok. Che non si fa più, vuoi, tra l'altro. Ah, giusto. Che non, tra l'altro, va bene, esatto. Ecco perché gli artisti seri non sono andati a Sanremo, stanno nessuno. Ah. Cioè, non le spende soldi, dici, certo. Che senso ha? Nel senso, io vado a Sanremo, i dischi non si vendono, quindi io sono i ricchi e poveri, facciamo un esempio. O anche sì, un artista serio. Facciamo l'esempio di Diodato. Non sono morti. Io non sento, no, più niente. Amo, che ti devo dire? Aspetta. Dimmi quando senti. Io continuo. Sì, sì, vai, tu continua, continua. Vai, vai. No, credo, okay, sia un problema mio. Allora, stavo dicendo, Diodato, cioè, l'altro mio... anno ha vinto il Festival di Sanremo, no? Siamo andati d'accordo con un pezzo meraviglioso. Sì, sì, molto bello. Sì. Che ci ha fatto con quella vittoria? Assolutamente nulla. Non ha venduto dischi, non ha potuto fare i live. Quindi è stata una cosa in perdita. Sì, adesso sappiamo chi è Diodato, ma adesso la prossima volta che deve ricominciare... Cioè, sappiamo, è relativo. Che poi mi sembra che poi Diodato abbia fatto una canzone a cavallo del lockdown, alla fine del lockdown, qualcosa del, sì, genere. Infatti, cioè, è un artista interessante, ma metti che un artista strano interessante. Faccio un esempio stupido, Fabrizio Moro, può piacere o non piacere, no? Però è uno che sa scrivere canzoni. Che ci va a fare a Sanremo? Niente. Perché non, quest'estate probabilmente non farà live, i dischi non li vende, e questo ha generato che poi sono andati a Sanremo tutta una sequela di artisti che non fanno live e non fanno dischi, ma no, vivono di visualizzazioni, vivono di YouTube, di mi piace, di, certo, Instagram, ma non sono artisti, sono artisti visuali, influencer. Primo fra tutti proprio il buon Achille Lauro, che è stato osannato come chissà che, ma è in realtà una cacca, siamo chiaramente, è nulla. Allora ci domanda pure 17-27 World Star a sto punto. No, non canta. No, sennò dai, come no? Come canta? No? È un ex rapper, sì. Ah, vabbè, per però quello il senso forse è quello, ecco perché siamo stati invasi, non saremmo questi nomi così strani, perché nessun artista ha nessuna convenienza ad andarci, fondamentalmente. E pensare che adesso noi saremmo presentati all'Eurovision Song Contest, che l'altro anno potevamo essere rappresentati da Diodato, e con quale sicuramente avremmo vinto, e poi l'anno prima da Mahmood, quindi insomma pure là ce la siamo cavate bene. Lasciamo Mahmood, però Diodato fa proprio il genere, perché qua si dovrebbe aprire un discorso più ampio su che cosa noi italiani sappiamo fare bene nella musica. Noi sappiamo fare bene la melodia, e noi ci insistiamo a fare rap, trap, sappiamo fare cosa? La melodia è roba, cioè noi siamo famosi in tutto il mondo per la melodia. Puccini ha inventato il pop, quindi fondamentalmente per cui siamo famosi. Se, chi? Se Diodato, sì, no, Puccini ha inventato Puccini, il pop. Puccini, no, Puccini ha inventato il pop. Se Diodato fosse andato all'Eurofestival avrebbe vinto. Stanno con chi ci andiamo, con quattro tizi improbabili vestiti male che fanno uno scimmiottamento di una cosa che altri sanno fare meglio. Quindi è proprio un crash generale del prodotto se uno lo analizza. Michele, la replica a questa cosa. Se vuoi replicare, è difficile replicare, perché comunque Luca è un addetto ai lavori. Quindi in realtà, ma chi ha detto? Nonostante chi ha detto ai lavori? Nonostante, esatto, c'è, diciamo, magari c'è un divario, magari di gusto, diciamo così, di quello che può essere. Ce l'ha sa, sì, di sì, là, sì, del fatto che non, sì, no, i gusti sono diversi. Dal ce punto la di vista tecnico, anche se io Achille Lauro l'adoro, però vabbè, cioè, ma proprio perché mi sta simpatico. Addirittura, sì, ma andarci a, sì, prendere, che ne so, un caffè, cioè, beh, se non cantasse Achille Lauro sarebbe un tipo interessante, però poi canta e sbiascica. Però c'è una, però ce ne sono stati tanti che sbiascica. C'è un album che io ho amato molto di Achille Lauro, ma in realtà mi sa che erano molti, non mi ricordo, che mi sembra che molti erano più che altro cover, quindi cioè la maggior parte era cover. Si permette pure di fare cover Achille Lauro, è proprio finito il mondo. Ma ragazzi, comunque Achille Lauro, beh, vestito però da statua era veramente bello, sì, cioè secondo me se, vabbè, veramente tutta farina del suo sacco, vabbè, ma è un edonista, diciamo, su, dai, è interessante, ragazzi. Ne ha proprio tre, farina del Renato Zero quella, non sì, infatti, vabbè, ma vabbè, che là il quale Renato Zero oggi è stato intervistato e ha detto io lo facevo per un motivo, non come questo clown, cioè ti dava anche un po' la dimensione della cosa. Vabbè, ma pure lì, cioè, nel leggero, senso, a un certo punto, cioè, larga giovani, cioè, per carità, tutto rispetto per, sì, Renato, no, infatti, Zero, ma assolutamente sono d'accordo. Quando Renato Zero non ci sarà più, ci saranno altri personaggi, certo, che porteranno avanti sta, sai, io non sono, cioè, tanto d'accordo, io sì, perché c'è, allora, una volta c'erano delle ragioni anche, c'era una spinta propulsiva anche ideale che oggi non c'è stata. Sì, perché adesso siamo in una società così evoluta che veramente i nostri diritti, le nostre, la nostra vita non è minata per niente da, beh, personaggi tipo Adinolfi o, beh, papi vari che cioè c'è bisogno comunque di una rottura sociale anche adesso, raga. Come dice Willy Peyote nel suo brano, che sì, fondamentalmente è l'unico testo interessante di tutto Sanremo, no? Che parla poi della situazione, mm-hmm, dice, noi apriamo gli stadi ma non teatri nel live, no? Questo è, sì, però dice, siamo in un medioevo solo più fashion, no? Sì, cioè, in effetti, ha ragione. Ah, io sono d'accordo al 100%, lo sapete, sì, veramente te, poi lui che hanno dato la quarta posizione, la quinta, fammi vedere, perché gli hanno dato un premio, un premio della critica, sì, come, sì, Elio, tutto sommato, vedi? Quando doveva vincere la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, cerco atto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom, sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia, la chiave. Vabbè, diciamo che come canzone, come si presenta, è un rap come 100 milioni di altri, no? Un rap vecchio stile, però un po' alla, sì, sì, bravo, basta sto trap de merda che ha rotto un po' le balle, con un look che stride abbastanza rispetto al tipo di canzone, secondo me, e al testo che porta, era vestito molto apposta, esatto, lui, assolutamente carina come cosa, secondo me. Io però su sta cosa che apriamo gli stadi e non facciamo le live è una stronzata, perché gli stadi non sono aperti, cioè, al di là de... a meno che l'artista vuole, vabbè, andare allo stadio a fare un concerto vuoto, cioè, apriamo gli stadi anche per fare partite, vabbè, però è un principio di priorità, giustamente lui l'ha detto, questa è una provocazione sulle priorità, comunque si è pensato subito a un modo di far andare avanti quel settore e meno a un modo dell'altro. Però ad esempio anche dopo dice una frase che mi ha colpito molto, dice, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato, e in effetti è una cosa interessante anche questa. Io non so neanche che significhi, poi, smocinare il culo, donne, però lo fanno solo le donne. Ah, ok. Una cosa molto in voga su internet. Sì, ho capito. Tipo cosa lì, la Lamborghini? Sì. Ok, ok. E vabbè, no, però io mi permetto, insomma, di dissentire solo su questa cosa qui, anche se capisco il principio e condivido anche la filosofia che spinge a dire una frase del genere. Però, cioè, è molto più facile da un certo punto di vista mettere delle persone a giocare una partita dentro uno stadio vuoto che mette un artista dentro uno stadio vuoto a fare un concerto inutilmente, cioè. Beh, guarda, su questo, Pizzi, vorrei dire proprio una cosa, non voglio essere troppo serio, no? Però siamo in una situazione in cui siamo d'accordo che l'Italia è un paese compresso, no? Nel senso, siamo tutti molto insofferenti, no? E aprire teatri e cinema, che sono posti relativamente molto sicuri, permetterebbe di fare un po' di decompressione, quindi forse ci bisognava pensarci a questa cosa, non di andare a fare discoteche, cose, però puntare sulla cultura, la gente si decomprime molto, se no tra un po' impazziranno tutti, E poi hanno fatto quella specie di siparietto, no? Gli artisti invitando, sì, ma sempre troppo poco se ne parla, purtroppo, perché la realtà è che si è fermi da un anno senza prospettive, perché il lavoro dell'artista è fatto da programmazione. Quindi non è che tu dici, ok, domani vai. Questa cosa che hanno detto, beh, che il 27, certo, riaprono i teatri, è falsa nel vero senso della parola. Vabbè, ma perché... anche perché, ma che riaprono, cioè, ma poi, nel senso, ma che cazzo fanno, a parte che le condizioni possono cambiare da una settimana all'altra, esatto, no? Riaprono e poi richiudono, sì, no, poi riapri e basta, dice, ok, c'è un protocollo, non si è contagiato nessuno, io sono testimone, io quest'estate ho fatto un live davanti a 1000 persone, non si è contagiato nessuno, perché là, che, si può, vabbè, mica li conosci tutti e 1000, che ne sai, cioè, no nel senso, sì, perché ci hanno preso tutti i nomi, e comunque a fine stagione è stata fatta l'indagine sul teatro e cinema, c'è stato un contagiato in tutta Italia fra concerti, teatri e cinema, quindi è comunque un modo di decompressione quello. Io capisco l'impuntatore di fare Sanremo senza pubblico, perché quello è un teatro, non è un Però qualcosa bisogna fare su questa cosa, perché andando avanti sarà sempre peggio. Vabbè, lì devi anche contestualizzare il fatto che se avessero messo del pubblico all'interno sarebbero scatenate polemiche di ogni genere, giusto, quindi voglio dire, senza troppe rotture dei coglioni hanno fatto così. Infatti secondo me dovevano mettere il pubblico a Sanremo e riaprire i teatri e i cinema, poi, in modo che la gente potesse andare. Dimo solo chiaro, cioè oggettivamente vedere un artista senza pubblico o vedere un calciatore senza spettatori una partita di pallone, la stessa cosa, è una delle esperienze più tristi. Ma io l'ho fatta da poco, nel senso, perché ho fatto un live streaming per il comune di Cervederi, o la Dispoli, non mi ricordo, la Dispoli, ed è devastante, perché non c'è, a parte l'applauso, ma non c'è la taratura di niente. Sì, sì, ma infatti avete notato che nella maggior parte dei casi, quando c'era non solo un artista ma la coppia, si guardavano sempre, cioè praticamente era veramente difficile che guardassero da qualche altra parte, effettivamente spesso si guardavano ma senza quell'interscambio di energia che c'è tra l'atleta, il pubblico, l'artista e il pubblico, esatto. Cioè, vedi, alla fine. Oppure Noemi pure in un'intervista ha detto che lei ha guardato. Chi? Noemi. E chi è? Noemi è una delle cantanti. L'ho sentita dire che appunto lei tutto il tempo, quando si è esibita, ha guardato uno dello staff che stava lì, non certo, so, certo, un tecnico, secondo me se volevo la scopare, beccato, però insomma, vabbè. Insomma. Ma Simone, però dai, ci può stare due. Dai, bene, bottarella come quello di Radio Cazza Dritta di oggi, diceva che vuoi scopare più o meno, insomma. Però dai, ci sta che comunque quando stai là sopra senza nessuno davanti, veramente no, io è difficile, io ve lo dico, è difficilissimo, l'ho fatto due certo. volte. Allora, sì. Salutiamo intanto nelle chat Sanremo, che ovviamente dice che Girasole è bugiarda e a lei piaceva Ibra. Ecco, ma poi a proposito, chi era questo? Aspetta, è meglio la cipolla. Buonasera, quindi salutiamo è meglio la cipolla. E Puzzetta e dice che noi bella gente in chat comunque. Simone, devi togliere sta cosa. Io ho capito. In questo momento io non l'ho visto, ci avevo giuto, ci ha detto è meglio la cipolla, mi sono perso molto, ti sei perso niente. Ah, tra l'altro, vabbè, ti sei perso Ibrahimovic. Ti sei perso anche Valerio Lundini, che è veramente, se ragazzi, se non lo conoscete, io vi invito a approfondire, perché è uno dei, cioè veramente grande. Ma è andato a Sanremo con chi, con un altro di questi inutili, come si chiamava? Aspetta che te lo dico. Ma inutile. Con Fulminacci, che però Fulminacci hanno fatto, che mamma vabbè, mia, non lo so, hanno cantato Penso Positivo insieme a Ravi Paci pure, quindi insomma è stata una bella esibizione. Penso Positivo fuori, quella dei Jovanotti. Sì. Ammazzo, è veramente. Vabbè, ma nella serata delle cover. Era una bella esibizione, se non c'era Fulminacci, però c'era. Se non ci fosse stato. Infatti. Ci fosse stato. Lundini l'ha salvata, insomma, grande Lundini, veramente. Vabbè, ma cioè, vuoi dire, ma tu vai a Sanremo, fai una cover, scegli un classicone, cioè no. Beh, penso Positivo. Vabbè, una merda, no? Io penso guarda, Positivo perché sono vivo. Invece domanda a Gualdi, no? Questo Ibrahimovic, no? Ma sì. Perché? Cioè aveva senso, perché io non sapendo chi era, quindi. Io Ibrahimovic, sì, no, cioè c'è bisogno anche un po' di sport dentro Sanremo. Ma che cioè. Sport? Poi ragazzi, Ibrahimovic, spacco bottiglia, ammazzo famiglia. Ma no, ma quello è Mihajlovic. È uguale, c'era pure Mihajlovic. A un certo punto hanno invitato pure Mihajlovic, che ha fatto praticamente il Vabbè, ma Mihajlovic perché c'ha avuto la leucemia, cioè nel senso. No, Ibrahimovic perché lui è un chiaro simbolo del calcio pulito, dello sport, esatto, dello sport, sportività, e quindi hanno chiamato. Infatti non è che hanno scelto l'esempio di, ne so, una volta c'era Baggio, no? Che alla fine era, hanno scelto proprio l'uomo più stronzo della faccia, sì, dell'universo, sì, cioè proprio più odioso. Cazzo, proprio. Comunque poi ci sono stati gli ospiti che hanno dato un pochettino, hanno ricordato alla gente come si canta, perché dicevano che il problema realistico è che il 90% dei cantanti a Sanremo stanno hanno stonato con tutto l'autotune. Sì, assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Umberto Dozzi, cioè raga, Umberto Dozzi. Ma perché è ancora vivo Umberto Dozzi? Sì, meno sì. Male, perché se l'alternativa è random. No, ma infatti io c'era un post, Luca, non mi ricordo se dove, se su Spino o da qualche altra parte, che in cui dicevano che Sanremo quest'anno si divideva in due fasce per lo spettatore. Quello che diceva ma è ancora vivo, oppure ma che cazzo è questo? Cioè, esatto. Cioè, effettivamente sì. Sì, ma ancora campa, meno, sì, esatto. Era quello. Quindi praticamente se io mi immagino un salotto, un divano, nonna e nipote, E la nonna dice: ma chi che c'è questo? E quello dopo il nipote gli fa: ma qua ancora campa, questo, esatto. Questo è ancora vivo. Esatto. Al nipote gli risponde: no, la nonna, scusa, tu sei morta, perché deve essere morto questo? E era una scelta per il cornale. Perché erano vecchi già quando erano giovani loro, capito? Esatto. Io però a questo punto passerei ai Nazi Skin, se volete. Vai. Cioè, comunque, davvero, no? No, certo. Tu me l'hai linkato, io me li metto. Ma così per dire. I vincitori di Sanremo. Già. Ma scusa, ma cioè, le battite di mani erano finti? No, sì, erano, sì, no, sì, sì, sì. L'ha detto erano all'inizio. Non erano i cinque stronzi che stavano lì. No, anche quelli che stavano lì. Ma senti che rocchetto! Bella! Sì, ma giallo di siga fra le dita non si può fare. Cosa? Che dici? Sigaretta fra le dita. Giallo di siga fra le dita. La siga? Io con la siga sì. Camminando. Ma che è sta merda? Ci credo tanto che posso fare questo salto. E anche se la ma chi canta così? Sei Maneskin, cantano così. I Nazi Skin. Però lui è buono. Però lui? È buono. È buono? Vabbè, è buono, ma vabbè, c'ha 12 anni, è buono. Ragazzi, dai, veramente. Pure Simon Le Bon era buono. Salutiamo Kate intanto, che per fortuna si firma col suo nome. Col suo nome. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. Tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Vabbè, dai, però almeno è una canzone che pompa, poi fa schifo, però... No, vabbè, tutto sommato. Ma sì, dai, cioè, scusate, ma avreste preferito, non lo so, far vincere appunto un grande classicone? Fausto Leali. Orietta Berti. Sì, Fausto Leali ha cantato come ospite. Ah, c'era Fausto Leali. Sì. Oh, ma ho detto un nome a caso io. Sì. Onestamente avrei fatto vincere il Malmeta, che ha una scrittura comunque. Sì, sì, però qualità. Perdonami, scusa se ti interrompo, ma secondo me il Malmeta ha scritto delle canzoni migliori di quella di quest'anno. Non era brutta, però comunque era secondo me un po' scontata. Cioè, da lui, insomma, so abbiamo ascoltato veramente cose più interessanti, più ricercate. Malmeta. Sono perfettamente d'accordo. Però qui, per citare quello che disse Garibaldi, che fu ferito, ricordiamo. Il regno al re, questo è il meno peggio che ci abbiamo. Ma questo sì, è assolutamente una, anche questo è una vero. Triste situazione che fa parte della storia d'Italia. Ogni volta esatto, questo da quando l'hanno unificata, però questo è il meno peggio di quello che si può. Esatto. Te la consegno a lei, Vittorio Emanuele, perché lei è il meno peggio che possiamo avere. Esatto. Sono governi che abbiamo questa, i governi e governi, anni e anni di governi che abbiamo questa perché... ideologia. E questo è il meno peggio che possiamo esatto, permettere. Anche perché ricordiamo che Garibaldi era un attimo monarchico, quindi insomma, fondamentalmente. Vabbè, dai, comunque. Questo non ci frega un cazzo. Leviamo... È andata, ci siamo levati dalle palle. Leviamo i Nazi. Una domanda alle donne, no? Cioè, ma che questa sì. Proprio sarà facciamo una polemica. No? Donne! Questo continuo dire questa cosa delle donne, le donne, ci sono poche donne a Sanremo, ci sono poche donne che fanno questa, la polemica sulla direttrice d'orchestra, che ha detto io sono direttore d'orchestra, non direttrice. Ma è una cosa che giova, secondo voi, alle donne? Cioè, questo rincorrere sempre. Far notare sempre le quote, diciamo, fra virgolette, che ci staremo stanno era quota maschile, troppo. No, ma infatti secondo me si sarebbe fatta più una bella figura ad invitare le donne che sono state invitate, ma senza stare a specificare. Abbiamo invitato tante donne, assolutamente, sono d'accordo. Infatti, sì. Cioè, sono d'accordo, ma questo un po' dappertutto. Però sì. Poi sai, allora se no, non il problema lo dici, è che se non lo dici poi ti rompono il cazzo. Esatto, no, ci sono soltanto il 43,8% di donne, sì, maledetti. Infatti pure la... Che palle. Esatto, pure Luca, la... ma io direttore... che ne facevi sta domanda? No, però c'è ragione. Però cioè, è così. È giusto. C'ha ragione, perché poi alla fine comunque ritorniamo al discorso del pubblico, no? Per quanto tu possa utilizzare protocolli sarebbe stato un motivo di polemica e quindi alla fine niente. Per esempio, la seconda sera Fiorello ha detto alla modella: certo, come sei magra, e il giorno dopo c'è avuto la denuncia dell'associazione donne perché ha fatto body shaming, tanto che poi la sera dopo sì. Ha detto una cosa sui polpi e poi l'associazione dei polpi ha detto: cioè siamo in un paese sì, vero. Sì, politica di corretta ha rotto il cazzo. Allora esatto. Non no. Bisognava secondo me invitare, non bisognava, scusate, non bisognava forse invitare, nel senso, la modella. Allora, tu vuoi trasmettere un messaggio che vanno bene tutte in TV, non le invitare tutte super secche, invita pure la gente normale. Però, scusate, senti, io non avrei invitato tante allora, donne. Però scusate, fammi una cosa semplice, perché a questo punto no, finisco sto pensiero. Facciamo una cosa semplice. Allora, l'associazione che poi denuncia e rompe i coglioni, denunciasse la modella, perché fai la modella e fai la magra? Non rompe i coglioni, sì, raga, cioè sì. non qua non stiamo a parlare di rompe i coglioni, qua stiamo a parlare di una cosa che praticamente dovrebbe essere assodata, e nel 2021 ci ritroviamo ancora a discutere di queste cose. Io avrei fatto una cosa molto più semplice, magari fate mati, avrei fatto una cosa molto più semplice. Avrei il trend avrei mantenuto la prima presentatrice della prima serata di Sanremo, che è stata una ragazza bravissima, che tra l'altro è un'attrice internazionale, che ha fatto ultimamente anche una serie con e forse con Stan. Sì, non mi ricordo con chi, però sì. Con Hugh Grant un sacco di soldi. Sì, veramente. Non più di una. E lei era, cioè, Matilda qualcosa, non mi ricordo. Però è stata veramente brava. Non c'era bisogno di mettere tutte queste donne random così per fare sta cosa. Perché fa figo. Nel senso, tu scegli comunque una forma di collaboratori. Io conosco Barbara. Siamo tre presentatori e presentiamo Sanremo, così come è stato anche negli altri anni. Allora, di principio io sono d'accordo con te. Il problema è che siccome che questo è uno spettacolo fatto in una certa maniera, ma è sempre stato fatto così. No, è sempre stato fatto con un conduttore maschile, due conduttrici femminili, ma sempre le stesse. Ci sono state anche le donne, però sì. Non è vero questo, che hanno condotto il festival, quindi sì, appunto. Quindi voglio dire, cioè, non c'era bisogno di cambiare ogni giorno donne perché dovevamo fare chissà quale guida femminile e poi mettere questo discorso, farlo diventare una farsa. Sì. Cioè, tra l'altro, allora, quella ragazza era veramente una ragazza brava. È comunque un modo per far parlare di Sanremo. In ogni caso, se non l'avessero fatto, gli avrebbero rotto il cazzo per la cosa contraria. È tutta pubblicità. Aspetta, però c'è un'altra cosa che io, infatti, sono d'accordo con te. Non è questo il tema della puntata. Vabbè, non è questo il tema. Infatti, io non l'avrei voluto neanche toccare perché veramente. È colpa di Luca. No, mi fa arrabbiare perché non c'è. Una volta che ho fatto la domanda. Non c'è una superficie chiara su cui parlare, cioè non qua stiamo a parlare. Ancora nel 2021 stiamo a fare queste discussioni e ci ritroviamo qui in questa sede a farle in questo modo. Che, cioè, secondo me quello che intendevo era semplicemente che certe volte questo continuo cosa le donne uguali fa un servizio peggiore di dire ok, le cose sono così, nel senso, chi c'ha un brano bello va a Sanremo, cioè una cosa normale, no? Cioè, ma poi vabbè, cosa... avete fatto venire la Palombelli, ma chi cazzo è? Cioè, no, la Palombelli conosco Barbara Palombelli, a cannate su, andiamo avanti. Comunque l'attrice è Matilda De Angelis. Matilda. Grande, veramente bravissima attrice, bravissima, cioè un po' giovanissima, che reggeva proprio il palco benissimo. Tutto questo potere. Sì. Io l'avrei tenuta per tutte le sere. Dovevi rinunciare quando a Ibrahimovic. Qualcuno è bravo. Il concetto è questo: non vale tanto invitare tante donne, ma invitarne una e farle fare veramente le cose. Fare il suo mestiere. Esatto. Quello era. Costa. Costa troppo. Non è vero questo, perché senso, tu inviti Paola Cortellesi, le metti a fianco Amadeus, quella sa fa bene il suo mestiere. Ma poi lo stesso Amadeus comincia a essere in ombra, capito? Quindi deve essere mai troppo quanto, capito? Comunque, per chiudere la cosa, andiamo a chiudere proprio su Sanremo, no? Che ne pensate del primo cantante in DAD della storia del Festival di Sanremo? Cioè Irama, che guarda, che gli ha detto culo sia quando ha cantato sia quando ha fatto la cover, perché poi ha cantato Cirano. Io quando ho detto oh mio Dio, la gran canzone, però c'ho avuto paura quando ho sentito canta Guccini, che poi tra l'altro è intervenuto pure Guccini, ovviamente col suo audio che non si capisce niente. Ovviamente, allora, ormai sono 20 anni che non si capisce niente. Però, però gli è andata bene. Gli è andata bene, secondo me gli è andata meglio in dad che... No, però che... è curioso, capito? Cioè, fino al giorno prima il cantante... Ma i fettuccini, porca troia, ma io sicuramente penso che si siano in qualche modo organizzati per questa evenienza. Cioè, mi sembrava impossibile che non ci fosse... Non ci fosse... Che è? È Gazzè? Sì. Gazzè che canta? Che è uno che c'ha la sala, che si è vestito da Leonardo da Vinci, poi da Superman. Da Superman, da Superman ieri. Sì. E da lì, è vero. Puoi registrare un fiale per chiuderci una notte in camera. Sono tutte soluzioni al naturale. Come torno? Io vedrai che male non ti fa. Te le ho create io, ma in nome della scienza. Ecco, allora Luca ha detto: mettiamo un pezzettino di questa. Perché, Luca? Perché? Perché questo brano è estremamente intelligente. È molto bello. E soprattutto perché Gazzè è uno che non gliene frega. Io l'ho conosciuto quando stavo a Tokyo, proprio perché ho avuto il privilegio di passare a Tokyo per caso e vedere che c'era Gazzè che faceva un live a Tokyo. Ma dai. È sì, esatto. Sì. Un localino piccolino, molto piccolo. E quindi poi e lui è matto. E così quindi andava là per divertirsi proprio. Quindi si è travestito. Sì. E ha fatto un brano che è estremamente intelligente, in realtà, leggendo il testo. Quindi roba che insomma, difficilmente altri riescono a fare. Quindi, ma posso fare una domanda a te, scusami? Posso farti una domanda? Ma se proprio devi, sì, no, perché ce l'ho proprio qua da ieri. Onestamente, a chi sei figlio? La persona più giusta a cui proporla. La domanda sarebbe questa: ma secondo te, cioè, quindi lui è diciamo scimmiotta proprio il mondo del naturale, dei prodotti naturali, cioè di tutta questa cosa? Oppure no, in realtà, no, quella è una critica. Molto particolare al periodo storico che viviamo, ai virologi in TV, infatti lui a metà della canzone lui dice una cosa interessante, dice sono però una camicia di forza, no? Quindi lui è una critica a chi c'ha sempre una ricetta giusta, no? Quindi lo usa come metafora, però anche detto lui, quindi ne so, cioè siamo in un periodo in cui ci sono 50 virologi in TV che ci dicono cosa fare, quelli che si curano il Covid con la vitamina C, quelli che fanno, e lui fa questa ironia, perché è molto ironico lui, e lo fa, e tanto che il brano, se ascolti fino alla fine, dice proprio, però vorrei fare anche questo, ma ho una camicia stretta che mi tiene, ed è la camicia di forza, lui è matto, quindi è un po' una critica sociale attuale in realtà, molto sottile. Anche una citazione al maestro e Margherita. Sì. Sì. Ma più al maestro o più a Margherita? Ah, beh, sicuramente al maestro, però comunque al libro. Cioè, sì. Infatti dice, io ho la soluzione. Aspetta, cara, c'è un problema. Questa camicia mi incatena un po'. Me l'hanno stretta a forza sulla schiena. Non chiedermi perché, io che ne so. Questo è il pezzo specifico. Io l'ho sempre stimato sto grande Cristiano. Grande, veramente. Io l'ho trovato quando nella sera in cui ha cantato Del Mondo, poi lui era veramente a casa, perché con un'orchestra, non mi ricordo il nome dell'orchestra, se Maiù di Luca forse. Yostr Band. Quella di Del Mondo era Magical Mystery Band. Magical Mystery Band. Operazina Mystery Band. Sì. E con Daniele Silvestri, veramente l'ho trovato, cioè, come se fosse una persona di quasi di famiglia, cioè era veramente dentro quella canzone, ci stava tutto lui. Magari se siete famiglia, prestaci tu spicci anche. Comunque io ho mandato a Pizzi una cosa per chiudere un po' questa missione facendoci una risata, no? Sì. C'è un grosso movimento, voi sapete il movimento del New World, i cospiratori, quelli che... New World Order. Ah, quelli che costruiscono il tunnel sotto... Esatto. New World Order. Okay. No, quelli, insomma, tutte queste... Con i bambini. Con Achille Lauro. Io ho mandato un attimo una cosa a Pizzi su Telegram. Achille Lauro è praticamente quello, il capo dei massoni. Sì, sì. Allora, io di questa cosa sono... Sai quante persone conosco che sono i capi dei massoni? Cioè, beh, vedi, da Neurodrom a Compagnia Bella sono tutti capi dei massoni, fine. Il festival della simbologia massonica, la normalità non era una cosa scontata, canzoni con frequenze distopiche, cantanti ibridi senza sesso, una chiara accelerata verso il transumano, bisogna saper leggere i messaggi dentro le canzoni. Che poi voi fateci caso, e questo vabbè, non voglio entrare neanche in questo tipo di tema, ma tutti questi qua, queste organizzazioni fissate con il nuovo ordine mondiale, alla fine sono tutte realtà ultra conservative, ultra conservatrici, super cattoliche, super super religiosi, tipo Quanon, no? Cioè, alla fine... La cosa che mi stupisce è quanto cambia l'idea velocemente, no? Fino a due mesi fa era ci vogliono vaccinare tutti per dominarci, no? Mo che i vaccini non ci stanno, poi non ci dominano, perché non ci vaccino perché ci vogliono dominare, cioè, riescono sempre a trovare come quelli della terra piatta, no? Ma sì, una vabbè, cosa incredibile, una cosa inquietante, sì. Veramente assurda. Cioè, fanno la terra piatta, fanno l'esperimento e non è andato, perché comunque hanno alterato l'esperimento. Hanno alterato la terra piatta. Comunque, per chiudere di Sanremo, facciamo un giro veloce sul... Io sono contento di tutto che Pizzi ha detto all'inizio di questa trasmissione io non parlerò, invece ha parlato un sacco, quindi vuol dire che si è trovato... Perché bene. Non può resistere. No, è che volevo dire cazzate, capito? Volevo dire alcune cazzate. Io faccio un giro con questa domanda, che è la domanda finale. Ecco, le domande di Luca scatenano il panico adesso. No, vabbè, per dire, cioè faccio il mio mestiere. Che è fare domande. Faccio il mio mestiere. Ha senso, cominciamo da Marco, poi andiamo avanti. Ha senso ancora farlo Sanremo l'anno prossimo, dopo questo Sanremo in streaming, senza pubblico, cantanti de merda, con tutta una serie di cose? Ha senso nel 2022? Ah, sì, lo chiedi a Marco, per lui non c'ha senso a prescindere. Cioè, ha senso, Marco. Però, vabbè. Però bisogna soltanto pensare, infatti, bisogna soltanto pensare a una cosa. Chi lo fa la Rai? Ha senso per la Rai farlo? Probabilmente sì, c'ha ancora un suo ritorno. Quindi finché ci avrà un ritorno economico, perché la Rai e comunque alle società che fanno programmi. Considera che l'indotto di Sanremo tanto era quello che succedeva in città. Esatto, però vabbè, quest'anno andrà così, ma l'anno prossimo teoricamente un pochetto meglio ci dovremmo stare, se no il problema che ci sia Sanremo o meno sarà l'ultimo dei nostri problemi, insomma. Infatti. Infatti, sì. Quindi sì, secondo me economicamente parlando c'ha senso. Ma io sapete che quando quando ero ragazzino mi ricordo che c'era Olivia. Sì, sono, Olivia. Ciao, sono Olivia. Il due giro sole. La curcuma sul viso e la camomilla tra i capelli. No, comunque, vabbè, questa è una storia lunga. Che comunque, io quando ero ragazzino, e mi ricordo che a febbraio c'è stato Sanremo, era sempre un momento di festa. Ma quando ero bambino, sì. Bambino, no? Cioè, nel senso, sì. che bello c'è Sanremo. Uno, perché era una cosa che vedevi tutti insieme, no? In qualche maniera. Vero. E due, perché comunque alla fine le canzoni erano carine, cioè nel senso, non è che stiamo a parlare della musica impegnata, magari che poi hai conosciuto dopo quando sei cresciuto, no? Oggi mi faccio questa domanda, cioè nel senso, cioè, visto che non ha più forse quel suo valore da quel punto di vista, neanche aggregativo, perché oramai i ragazzini stanno col cellulare, quelli... insomma, alla fine... Chi lo guarda sto cazzo di Sanremo? Perché poi i dati ci stanno. Lo guardiamo 39.000% di share. Capito? Forza tutti a casa, però. Cioè, sì. Sì. Sì, dai, quando a un certo punto, non so se Amadeus o Fiorello, esatto, ha detto che è il festival più seguito, più non secondo mi ricordo, twittato, sempre, più, sempre più secondo, social, non lo so. Vabbè, grazie, cioè, al cazzo. Grazie al Kaiser, esatto. Sì, comunque, sempre secondo le famose famiglie dell'Audi che nessuno conosce. Perché beh, parliamolo, no, ma ricordiamo, no, beh, però ricordiamo anche che di fatto questo anno dalla prima e seconda ondata è stato l'anno che noi abbiamo fatto più ascolti in assoluto nella nostra storia, cioè proprio noi come Runtime, come gruppo di podcast, come quello che cazzo ti pare. Perché? Perché era oggettivo il fatto che comunque la gente ha dedicato più tempo a fare questo, dato che comunque stavano tutti, tutti a casa, capito? Quindi noi vabbè su questo ci abbiamo, vabbè, mo l'11 festeggiamo un anno dalla prima trasmissione che abbiamo fatto, di quando abbiamo preso l'impegno pandemia, di fare almeno una live al giorno durante la prima fase, no? Che è stato un momento storico per noi ed è stato un momento in cui noi abbiamo fatto questo impegno perché ci volevamo far compagnia fra di noi e volevamo far compagnia alla gente, e c'è stata una risposta da questo punto di vista, e sono convinto che questo è il festival di Sanremo più visto. La cosa no, che... in realtà no, hai dati alla mano. No, ci ha avuto un no, calo dello molti share. Meno ascolti dello scorso anno, tranne la finale, dove la finale invece è stata effettivamente abbastanza vabbè subito. Comunque no. È credibile. Ma comunque continuiamo con col giro della domanda, Olivia. Sì, scusa. Ma non mi ricordo la domanda. Vale la pena fare un altro Sanremo? Fare Sanremo l'anno prossimo? Ah, vale la pena. Io onestamente non lo so. Guarda, però se lo fanno noi tutte e cinque serate facciamo la contro live. No, infatti sì, sarebbe il caso di farlo. Comunque devo dire che a questa domanda mi aiuta a rispondere a una domanda. No, non possiamo fare la contro live, cioè le puntate durano fino alle 2 di notte. Sì, effettivamente. Ah, beh, in effetti, sì, pure sta comunque cosa. Secondo me varrebbe la pena, se non altro, ragazzi, per sentire l'orchestra che suona, perché l'orchestra che suona è proprio bella. Io non voglio provocare una delusione, no, la voglio dare. Non sei d'accordo? No, è che non è che proprio suona tutta l'orchestra là, eh. No, in che senso? Beh, in effetti è la parte archi non è che proprio suona, eh. Orchestra no. Che suona, spero di sentirla live nel 2022. Vabbè, sì, però in mancanza di niente, cioè, secondo me, insomma. Beh, noi per esempio quando siamo andati all'auditorium a vedere probabilmente l'ultimo, so, l'ultimo concerto de come si chiama lì? Coso. Michela. Cosa? L'auditorium. Quando siamo andati con Gusella all'auditorium. Ah, posso, Stefano. Posso, esatto. Sì, vabbè, ma ragazzi, è chiaro che è meglio andare all'auditorium, andare a sentire un concerto, andare a sentire una live pure nel pub piccolo, scamuffo, e ma vai a sentire il jazz. Cioè, sta cambiando l'educazione dal jazz. Ma è chiaro, che è chiaro che è meglio, è un'altra cosa. Però l'ultimo concerto che ho visto prima della pandemia sono i Modena City Ramblers, quindi ne vado fiero. Il 31 gennaio. A mappa ancora suonavano? Suonano, io penso che il chitarrista via sta a scuola da me, quindi c'è, cioè, gente, un discorso lungo. Disperata, gente disperata. Sì. No, non è vero. Ma dai, scherzo. Siamo tutti disperati. Esatto, esatto, esatto. Miela, quindi tu, secondo te invece vale la pena? Allora, vale la pena prima di tutto perché io voglio tornare a vedere la finale con Luca. Esatto, perché in realtà stavo per dirlo prima, cioè, mentre la tradizione. Noi avevamo una tradizione che ormai era tipo Natale. Esatto, tutti insieme. Io vedevo con la finale si guarda con Luca. Quindi si arrivare alla fine, perché io mi ricordo che io partivo da casa di pizza, arrivavo a casa, ci mettevo circa un'ora e ancora c'era un altro pezzo di Sanremo da sì, perché ce la facevamo più dopo un po', veramente veniamo presi per sfiancamento, però sì, in sì, effetti per tradizione era una cosa che vedevamo tutti insieme. Quindi, quindi non penso che si possa fare il contro festival, però e vale la pena, anche cioè veramente è stato molto carino il tutto il siparietto che ha fatto The Jagal, che tra l'altro ormai hanno scoperto tutti i podcast e anche The Jagal ha fatto il sì, podcast non voglio tutto Sanremo, ma dura di meno, quindi insomma molto carino anche quello. E quindi vale la pena sicuramente per questo. Spero che finisca sto teatrino de 50.000 donne che non ne fanno una e ci mettono una brava presentatrice. Sì, 50.000 donne non 50.000 ne fanno 50.000 presentatici comunque, che non ne fanno una. Spero che ci mettano una o due presentatrici brave. Io sogno Sanremo condotto da Cattelan, però onestamente No, non glielo faranno, ma non mai, lo farà mai anche no, se il fatto che lui ha lasciato lui è un bravo professionista comunque. No, sarebbe fantastico, sarebbe veramente, sarebbe la logica, direttore artistico e presentatore, sarebbe la logica in questo mondo, cioè nel senso ladri. Comunque sarebbe diciamo così la cosa più facile e più diciamo così più naturale. No, però purtroppo abbiamo visto che, vabbè, raga, che gli la interessi la Rai, sono altri. Sì, ma poi c'è stata la Rai, c'è veramente Amadeus, raga, ma di che stiamo a parlare? Cioè, boh, sì. Senti Luca, ma perché tu vorresti chiudere con Renga? Perché Renga deve morire? Perché no, nel senso, perché è giusto che finalmente si rende, cioè, la brutta figura, ti ho linkato poi la versione della brutta figura proprio, ma dove ha fatto la steccata proprio. Sentiamo. Verso la fine, anche un ritornello. Ah, e vabbè, un po' di prima. Organizzavo. Vabbè, intanto possiamo salutare. Guarda un po' la mia città. Vai. Madonna, già da subito è terribile. Mi ha smesso di sognare. Sognare. Come mai nessuno non lo ammette. No, ma non ce la fa Marco a sostenere il. No, è terribile, è terribile. Spazi immensi di solitudine. Smessi. Aspetta il ritornello. Che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere. Di stare fermo e continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove. E lo sguardo che tra l'altro la musica sommerge il cantato comunque. E da finire che. Come sempre mi dimentico. Cioè, senti qua. Mamma mia. No, no, terribile, ragazzi. Mamma mia. Ma lui lo sa? Cioè, questo poi che diciamo è. Che. Cioè, sì. Ti faccio una domanda tecnica, Luca, perché tu sei l'unico che può rispondere tra di noi, no? Ma lui lo sa? Madonna, che brutta fine. Lo sa. Ah, ok, no. Lo sa. Ma è sempre stato così. Era facile, cioè, l'ho nascosto. È tipo quando col piede nascondi. No, raga, non è sempre stato così. Io lo seguo da quando sono ragazzino. Tu lo segui quando facevi anche nelle live, anche nelle live. Ma tu lo guardavi con gli occhi dell'amore. No, esatto, no, esatto. No, ma che amore? Ma io non sono mai stata innamorata di Francesco Renga. No, io tutti i difetti ce l'ho, perché uno di essere non è sempre perfettamente intonato, quindi sì. Cioè. E comunque bisogna dire che questo. E quindi da che dipende questa cosa, scusa? Beh, ci sono dalla droga? No, vabbè, che vuol dire? Cioè, tanti potresti essere querelata, insomma. No, dipende dalla vecchiaia. Se non canti da un anno è un po' difficile. Ah, tu dici. Però cazzo, volta. Se sei professionista ti eserciti in continuazione. Cioè, Ma non è la stessa cosa, perché la voce è uno strumento emotivo, capito? Quindi non è così. Poi bisogna anche dire che quest'anno saremo avuto degli enormi problemi audio. Abbiamo avuto microfoni che non funzionavano, ascolti che non andavano. Il che probabilmente è dovuto al fatto che dovevano appunto avere ognuno il suo microfono, ognuno il suo in-ear, igienizzazioni. Ah, certo. C'è stato qualche problema a livello tecnico. Sì, anche all'inizio della puntata delle cover, infatti Noemi ha cantato con fuori sequenza. Poi ragazzi, la canzone è una canzone, allora, è una canzone che hai sentito milioni di volte, Voglio spiegare che è un progressive, voglio dire. No, vabbè, cioè questa è una canzone che hai sentito milioni di volte e te ne sei dimenticato. Lo sfascio è progressive, sei sfasciato progressivamente. Comunque diciamo che ci sono enormi problemi audio, anche la resa audio proprio televisiva non era buona. Ma in realtà io da casa mia effettivamente l'ho trovata migliore di quella dell'anno scorso, però adesso non so, magari non ho apparecchiature di alti livelli. Anche il tipo di TV. Ma c'ho sempre quella. Non l'ho cambiata. E questo è quello che pensi tu? No, sì, è vero, non me l'ha regalata nessuno. Cioè io ad esempio le chitarre non le sentivo suonare, cioè io vedevo i chitarristi che muovevano le mani, ad esempio quello di Extra Liscio, che suonava tutta la parte di chitarra che non si sentiva. E quella era una cosa un po' grave. Vabbè, ma pure qui comunque su sta canzone all'inizio dell'attacco del ritornello la musica lo sovrasta praticamente. Ci sono vari problemi. Direi di chiudere qui. Vabbè, sì. Non gliene frega niente a nessuno di Sanremo. Diciamo chiaramente. Era più per stare insieme noi. Sì, guarda. Sì. Ormai non potendoci vedere diventa questo un modo di. Ma perché non si potevamo vedere, capito? Cioè. Che battuta simpatica. Vero? Era una battuta. Devi fare con un mio amico che la domenica fa i tamponi, lui e gli amici e si fanno le cene. Ho capito, se fanno le cene, ma poi non c'hanno il coprifuoco. No, da pranzo, dal pomeriggio, però si abbracciano, si fanno il tampone la mattina in farmacia. Si abbracciano, il sabato a pranzo. Beh, a me sembra una scelta intelligente. Manco a me, però, che ti dico. No, vabbè, ognuno fa quello che cazzo gli pare. Infatti, finché sono contatti loro, va bene. Io tutto. Direi, insomma, proprio per me, chiudiamo con una cosa fondamentale, che i Maneskin andranno a rappresentare l'Italia in Europa. Detto questo, penso che tutto sommato Giuseppe Conte andava pure bene se i Maneskin ci rappresentano in Europa. Ma Giuseppe Conte andava bene, dai. Vabbè, dai, su. Ok. Allora, io ringrazio e saluto Michela perché ha voluto questa bellissima questa idea. Insomma, ci ha avuto questa idea di fare questa trasmissione. È stata carina, a parte il momento polemico, è stata carina, bravo. Cortesia e ospite, l'autotune a Sanremo va abolito, hanno scritto. Ok, ce lo segniamo perché poi. Io sono d'accordo. E poi però. Sì, anche io sono d'accordo. Poi però, che cazzo ce va? Cioè, ho capito, però, cioè, raga, una volta c'era un certo rigore tecnico anche, no? Se non. Voglio Sanremo l'anno prossimo questa situazione. Un tanto al chilo. Già, grande. Un tanto al chilo. Destra di Luca Cascione. Esatto, grande. No, tra l'altro, cioè, raga, noi abbiamo una canzone pronta per Sanremo con un Marco Gualdi inedito che veramente farebbe morire. Lì, il duetto è Marco Gualdi Simone Pizzi. Farebbe invidia a tutti. La canzone. Altro che Mammut, altro che. Mammut. Mammut, altro che Achille Lauro. Cioè, scalzate. Sì, gira sole, la canzone gira sole. Sentite. Sì. Va bene. Dai, salutiamo Luca, buona cena Luca, grazie di tutto. Ciao Luca, grazie. Salutiamo Girasole, chiaramente. Ciao a tutti, buona cena. Passo da Girasole, vi saluto pure io. Marco Gualdi, e ragazzi, adesso vi lascio con il brano della settimana di Rantem Radio e poi ovviamente andranno a rotazione tutte le repliche e questa notte ci saranno ovviamente Runtime by Night, sempre le repliche. E vi ricordo che questa sarà una settimana abbastanza interessante e continuate a seguire questo nostro streaming, ovviamente questa nostra web radio che piano piano, insomma, comincia a crescere anche dal punto di vista degli ascolti dello streaming giornaliero. Questo mi fa veramente molto piacere. E poi, insomma, l'11, ricordatevi, l'11 la sera faremo appunto questa puntata speciale, un po' tutti quanti gli speaker di Runtime Radio, dove festeggeremo appunto questo anno. Questo anno speciale, quest'anno, insomma, dove io abbiamo, non lo sapevo. Come non abbiamo parlato tante volte? Vabbè, lasciamo perdere. Grazie a tutti e buonanotte, anzi, buona serata. E buonanotte, ascoltatevi buonanotte. Il brano del giorno. Ciao. Ciao. Ciao. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio.